Storie italiane. Il libro della giungla. Tanto tempo fa, nella giungla africana, vivevano tanti splendidi animali sottoposti alla legge della giungla. C'era anche un uomo che viveva in una tribù. Una notte, la tigre Shere Khan decise di scacciare gli abitanti del villaggio. Attaccò il villaggio con i suoi potenti ruggiti. Tabaqui, il suo fedele sciacallo, lo seguiva. Mentre un uomo tentò di catturarlo, Shere Khan si fiondò su di lui forte e ruggente più che mai. Raksha stava guardando l'attacco della tigre dalla grotta insieme ai suoi cuccioli. Che tigre vigliacca! Dalla caccia ai più deboli, gli umani. Dopotutto, quella è una tigre zoppa. Non puoi aspettarti che cacci un cervo. Non ha ottenuto nulla, solo una gamba bruciata. I ruggiti si placarono e ancora una volta il silenzio cadde nella foresta. Mentre i lupi parlarono, sentirono un fruscio tra i cespugli. Papallupo si mise in posizione per saltare ed attaccare. Un cucciolo d'uomo! Il bambino era fuggito dalla tribù e giunse fino alla grotta del lupo. Lo terrò con me e lo accudirò come i miei cuccioli. Lui si chiamerà Mowgli. Raksha, non credo che il consiglio accetterà un cucciolo d'uomo. Lo deve accettare. Tabaqui era nascosto dietro la grotta e riferì del cucciolo d'uomo a Shere Khan. Shere Khan immediatamente raggiunse la grotta. Raksha, il cucciolo d'uomo mi appartiene. Consegnamolo immediatamente. Vattene. Sei zoppo e vigliacco. Mowgli è mio figlio. E tu non devi osare toccarlo, capito, Shere Khan? Shere Khan decise di lasciare in pace i lupi. Era ferito alla gamba. Inoltre, mamma lupo era molto arrabbiata. Un giorno il tuo ragazzo sarà sotto le mie zampe e tra i miei denti. Il giorno successivo, Mowgli fu presentato al branco. Dopo un lungo dibattito, Bagheera diede il consenso. Il consiglio accettò Mowgli. Bagheera e Baloo gli insegneranno le leggi della giungla. Deve ritornare nella sua tribù quando sarà adulto. Mowgli crebbe nella giungla, imparò a vivere in mezzo ad essa. Baloo gli insegnava tutto riguardo alla giungla. Insegnò a parlare le lingue degli animali e anche le sue lezioni preferite, come prendere il miele e catturare il pesce. Bagheera insegnava a Mowgli l'autodifesa. Mowgli fu comunque allevato come un uomo, così da non tradire la sua natura. Gli fu insegnato anche che un giorno sarebbe dovuto tornare al suo popolo. Presto Mowgli divenne abitante della giungla. Era amato dai suoi fratelli lupi. Ben presto divenne amico di tutti gli animali della giungla. Mentre gli anni passavano, Akela, il capobranco, non era più in grado di dare la caccia come prima. Shere Khan decise di approfittarsi di questa situazione. Giovani lupi, dovete guidare il branco. Rimuovete Akela dalla sua posizione. Consegnatemi l'umano, oppure io caccerò nel vostro territorio e vi priverò di tutto il vostro cibo. I giovani lupi decisero di rimuovere Akela dal comando. Siete dei vigliacchi a consegnare Mowgli a Shere Khan. D'accordo, mi dimetterò come vostro leader. Ma Mowgli non dovrà lasciare la giungla. Bagheera intervenne alla riunione. Mowgli, è giunto il momento di mostrare la tua forza a Shere Khan. È giunto il tempo di combattere. Ma come posso combattere contro di lui? Bagheera, l'intera giungla appartiene a Shere Khan. Mowgli, recati al villaggio degli umani e prendi il fiore rosso. Il fiore rosso spaventerà Shere Khan. Quindi devo lasciare la giungla e vivere con gli umani, è questo che vuoi? Mowgli abbracciò Bagheera e Baloo e pianse per la prima volta nella sua vita. Mowgli dormiva sulla pancia di Baloo. Si addormentarono tutti su di un albero. Un gruppo di scimmie videro Mowgli e lo portarono via. Queste scimmie erano gli animali più folli della giungla. Vivevano senza rispettare alcuna legge. Quando Baloo e Bagheera si svegliarono, pensarono che Mowgli si era diretto verso il villaggio. Mowgli fu portato via attraverso gli alberi delle scimmie. Presto vide l'aquila Chil, che volava lì vicino. Mowgli gli parlò con il linguaggio degli uccelli, così che Baloo e Bagheera sapessero dove le scimmie lo stavano portando. Chiudi la bocca! Questo è un altro trucco! Vogliamo imparare tutti questi trucchi da te! Così molto presto domineremo la giungla e controlleremo tutti gli animali! Chil riferì tutto a Baloo e Bagheera circa il rapimento di Mowgli. Hanno rapito Mowgli! È nella giungla nera, dove si trova la città abbandonata! Baloo, quelle scimmie sono astute e pericolose! Non possiamo combatterle da soli! Dobbiamo assolutamente chiedere aiuto a Ka! Convinti che Ka il serpente potesse aiutarli, si diressero alle rovine. Le scimmie nascosero Mowgli dentro una grotta gigante. Per primo entrò Bagheera per distrarli. Le mordeva e le gettava via, ma le scimmie erano molte e lui era da solo. Bagheera, gettati nello stagno! Ci penserò io a sconfiggere queste stupide scimmie! Baloo iniziò a gettare le scimmie qua e là, ma ben presto si rese conto di trovarsi in difficoltà. Tutte le scimmie sedevano sulla sua pancia e lo picchiavano. Ka si presentò e fece un sibilo. Tutte le scimmie si spaventarono e si arrampicarono su un albero. Ka ruppe la nicchia dove Mowgli era bloccato e lo liberò. Oh, oh, che carne deliziosa! No, Ka! Tu devi stare lontana da quel bambino! Ka liberò Mowgli. Cominciò a danzare, ipnotizzando le scimmie, e lei li portò via con sé. Amici, penso che la giungla non faccia più per me. Devo andarmene al più presto. Mowgli diede un ultimo addio a Bagheera e Baloo e partì verso il villaggio. Gli abitanti del villaggio ebbero paura di Mowgli. Questo ragazzo è venuto dalla giungla! Potrebbe essere un impostore! Potrebbe farci un sortilegio! Ma mi sembra un bambino innocente. Perché state facendo tali congetture? Vieni, bimbo mio, tu starai con me. Presto Mowgli si ambientò alla vita del villaggio. Imparò la lingua degli uomini. Iniziò a lavorare accudendo il bestiame. I suoi amici Bagheera e Baloo lo incontravano sui monti, ma un giorno i suoi fratelli lupi gli vennero incontro. Il consiglio è in difficoltà. Shere Khan ha deciso di uccidere tutto il branco dei lupi. Hai deciso di consegnarmi a Shere Khan? Perché dovrei preoccuparmi di voi? Non siamo dello stesso sangue, ma nostra madre ci ha cresciuti come fratelli. Mowgli, devi vendicarla! Che cosa? La mamma! È morta quando combatté contro Shere Khan. È entrato nella grotta per avere tue notizie. Nostra madre combatté contro di lui. Ora basta! Ho deciso, non risparmierò Shere Khan! Mowgli radunò tutti gli abitanti della giungla e si diresse dove Shere Khan risiedeva. In groppa su di un bufalo raggiunse il canyon e si incontrò con Akela, il vero leader del gruppo. Andate in direzione opposta, io lo condurrò qui. Shere Khan rimarrà intrappolato. Il bestiame farà il resto. Come previsto, il bestiame si diresse verso Shere Khan. L'intero canyon cominciò a tremare con quel galoppare. Shere Khan sentì il rumore degli zoccoli e cercava da una parte e dall'altra una via d'uscita, ma le pareti del canyon impedivano la sua fuga. Il bestiame si spinse con tutta la sua furia contro di lui. Shere Khan inciampò e il bestiame lo schiacciò. Il toro schiacciò Shere Khan. I bufali correvano sopra di lui. Era ormai finita la sua tirannia. Era la fine per Shere Khan, il nemico del villaggio e della giungla che da tempo terrorizzava tutti. Yeah! Yeah! Yeah! Mowgli tolse la pelle a Shere Khan e si diresse alla collina del lupo. Vedendo la pelle di Shere Khan sulle spalle di Mowgli, tutti i lupi ululavano trionfanti. Akela fu elogiato come capobranco e Mowgli lasciò la foresta. Mowgli scoprì che Messua era la sua vera madre. La giungla e il villaggio vissero felici e contenti.